Dunque, noi abbiamo fatto una proposta piuttosto semplice. Sulla base delle opinioni espresse da alcuni giuristi molto autorevoli, penso a Emiliano Santoro che ha scritto sull'altro diritto, penso alle avvocate dell'ASGI, Daniela Consoli del Foro di Firenze e Nazarena Zorzella del Foro di Bologna, il cosiddetto decreto Salvini, oggi legge 132 del 2018, è vero che hanno fatto sì che il permesso di soggiorno abbia smesso di diventare titolo idoneo all'iscrizione anagrafica, ma questo non significa, perché sarebbe certamente anticostituzionale, che viga nel nostro ordinamento un divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Quindi, essendosi determinata una lacuna nell'ordinamento, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'intera normativa sull'immigrazione suggerisce, anzi, mi parrebbe più opportuno dire impone, il reperimento di altri titoli idonei a consentire l'iscrizione anagrafica. E da questo punto di vista, posto che la residenza non è altro che il luogo in cui la persona dimora abituale, il suggerimento che con il primo ODG abbiamo proposto è di utilizzare il cosiddetto modello C3, quindi l'identificazione dei migranti richiedenti effettuata dalla questura nell'occasione della presentazione della domanda, come titolo idoneo a consentire l'iscrizione anagrafica. Questa è una prima strada, se volete intenderla così, di aggiramento della normativa, ma ripeto, necessitato dal bisogno che ogni interprete ha di leggere le norme in modo costituzionalmente orientato, cioè in modo che non si profili un contrasto insanabile con norme di rango superiore. Un secondo ordine del giorno, alternativo per così dire a questa strada, è invece fondato sui diritti di cui i richiedenti possono e devono necessariamente usufruire. E da questo punto di vista, nell'ordine del giorno abbiamo richiamato l'articolo 5 del decreto legislativo 142 del 2015, che garantisce espressamente ai richiedenti asilo l'accesso a tutti i servizi previsti dallo stesso decreto legislativo o comunque a tutti i servizi erogati sul territorio sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. E in questo ordine del giorno abbiamo anche richiamato tutte le disposizioni relative ai singoli capitoli, per così dire, relativi ai servizi, quelli educativi, quelli di welfare, ma anche i servizi erogati da soggetti privati come le poste, come le banche, innanzitutto la possibilità di aprire un conto corrente, per ricordare e per invitare il sindaco a ricordare a tutte e tutti che sul territorio municipale di Bologna i diritti si garantiscono a tutti, in applicazione di altre disposizioni dell'ordinamento non abrogate né modificate. Quindi si tratta sostanzialmente di un modo di andare alla sostanza, cioè abbiamo capito che il sindaco dice non disobbedisco al decreto, aspetto il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma noi abbiamo donne e uomini in carne ed ossa che non possono aspettare un anno per capire se hanno diritto all'iscrizione anagrafica e soprattutto se hanno diritto ad accedere a servizi essenziali, e quelli una città come Bologna deve garantirli. E allora la prima domanda è ovviamente qual è stata la risposta a questo ordine del giorno da parte sia del sindaco che in generale del Consiglio Comunale. Allora, il Consiglio Comunale ha respinto l'ammissione all'ordine dei lavori dicendo di essere non solo disposto, ma anche interessato a un tempestivo approfondimento del tema in commissione. Non voglio indignarmi perché mi sembra, diciamo, plausibile che si chieda di approfondire un tema articolato come questo. Quello che noi abbiamo chiesto e continueremo a chiedere è che venga immediatamente calendarizzata la discussione in commissione, che trasformeremo subito in un'udienza conoscitiva, in modo tale che, avendo, diciamo, la fortuna di avere Nazarena Zorzella a Bologna, perché è un amministratista bolognese, come è noto, e gli stessi uffici, se avessero dei dubbi, possano confrontarsi anche diciamo, con i primi interpreti, che ripeto, non sono soltanto le due avvocate dell'ASGI, ma anche molti altri autorevoli giuristi che hanno scritto nei primi giorni di quest'anno. E quindi io mi aspetto che ci sia una disponibilità a interloquire su questo terreno, perché noi abbiamo capito che il nostro invito a seguire le orme di altri sindaci come Orlando e De Magistris, come dire, è stato mal digerito dal sindaco che ha scelto un'altra strada. però la terza via che egli avrebbe scelto lascia aperto un problema gigantesco che sono i suoi tempi, cioè si può anche aspettare un ricorso alla Corte Costituzionale, il suo pronunciamento, ma i diritti non possono aspettare, le persone in carne e ossa non possono aspettare, quindi intanto nelle more di questo giudizio che ancora non è pendente, una città come Bologna deve garantire i diritti fondamentali. Sì, tra l'altro infatti sia Merola ma anche Bonaccini a livello di regione, per esempio Bonaccini ha recentemente spiegato che la regione presenterà, diciamo, la questione alla Corte Costituzionale, appunto, e ha sottolineato come il problema più grosso dal punto di vista della regione e degli enti locali sia appunto quello dell'iscrizione all'anagrafe e l'accesso ai servizi. Anche Merola, diciamo, ha preso appunto questa posizione della terza via, in cui un po' dice finanzieremo noi invece di usare i soldi nazionali, però appunto a questo punto rimane aperto sempre il problema dell'accesso, diciamo, ai diritti. Dunque, sono due capitoli per così dire distinti. Cioè, da un lato c'è il tema che questa disposizione che dice che il permesso di soggiorno non è un titolo valido per procedere all'iscrizione anagrafica. Ed è il problema al cui aggiramento sono finalizzati questi ordini del giorno, assolutamente compatibili con norme dell'ordinamento giuridico. Poi c'è il secondo tema, che invece quel che possono fare i comuni in supplenza dei tagli, del disinvestimento che questo decreto determina sul piano dell'accoglienza dal punto di vista delle accoglienze municipali. E lì, come dire, non solo sono d'accordo con Merola, ma che il comune si muova in termini tempestivi, perché è senz'altro nelle facoltà dei comuni sviluppare sistemi di accoglienza diffusa che sopperiscano ai disastri di questa nuova normativa nazionale. E infatti ti volevo chiedere proprio, visto che siamo in argomento, qualche aggiornamento rispetto a come si sta muovendo il Comune su questo secondo fronte, ovvero quello di sopperire alla mancanza. Su questo secondo fronte per il momento siamo agli annunci, nel senso che vedremo in che modo e misura il Comune intenderà dar corso e continuità a questo impegno, cercheremo di capire e seguire con attenzione in che modo sarà governata e gestita anche l'assegnazione degli immobili pubblici cosiddetti rigenerati, per capire che tipo di investimento su progetti di accoglienza degna il Comune vuole sviluppare, in che tipo di sinergia con il terzo settore, il forum del terzo settore e quant'altro, e soprattutto, lasciamelo dire, se il comune sia disponibile a mettere in campo l'amministrazione per una modifica della legge regionale sugli alloggi ACER che rimetta a tema la questione dell'autorecupero, perché i migranti, oltre a essere, come talvolta accade, dei disperati, sono anche portatori di esperienze, di competenze e di professionalità. E io sono certo che se il patrimonio ACER, la cui ristrutturazione oggi viene stimata attorno ai 5 milioni di euro, potesse essere sbloccato anche con, diciamo, percorsi di plausibile autorecupero, questo sarebbe un modo di ospitare e valorizzare professionalità, di finalmente mettere a disposizione alloggi per il momento bloccati e anche costruire sinergie, perché è chiaro che nessuno ha la professionalità per ristrutturare una casa nel suo complesso, ma se tu metti a sistema e metti in rete saperi diversi anche con logiche di tipo mutualistico o cooperativo, lo scambio di saperi, esperienze e competenze potrebbe anche facilitare di gran lunga l'integrazione.